giudizio immediato, il Tribunale di Milano processerà il Premier per concussione e prostituzione minorile. Il PDL è tutto secondo Copione, un processo surreale, l'opposizione Berlusconi, vada dai giudici. Notte senza sbarchi a Lampedusa, il Premier e Maroni in Sicilia per trovare un posto agli immigrati e scontro con l'Unione Europea sull'accoglienza. Rallenta la ripresa economica nel quarto trimestre, il PIL chiude il 2010 con un più 1,1%. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti a questa edizione di GR24. Dunque, le notizie che vengono da Palazzo di Giustizia sono queste: giudizio immediato per Berlusconi, il presidente del Consiglio, che si trovava e si trova questa mattina in Sicilia per far fronte all'emergenza sbarchi a Lampedusa. Forse anche per questo è stata annullata una conferenza stampa, la sua partecipazione a una conferenza stampa che invece ha tenuto il ministro interno Maroni. Non lo sappiamo, lo capiremo tra poco. Adesso però andiamo a Palazzo di Giustizia a Milano con Raffaella Calandra per i particolari di questa notizia. Giudizio immediato per i due reati, per Berlusconi. Raffaella, buongiorno. Sì, le prove sono evidenti. Silvio Berlusconi va per questo mandato direttamente a processo dopo 5 giorni esatti dalla richiesta della procura e dopo un'ultima riunione questa mattina con i vertici dell'ufficio qui al 7° piano del Palazzo di Giustizia di Milano. Il GIP Cristina Vicenzo ha disposto il rito immediato per il Premier per concussione e prostituzione minorile. Il 6 aprile, dunque, data di inizio del processo, da una parte in aula ci sarà il Premier imputato, dall'altra gli scranni delle parti lese, oltre a Rubi potrebbe esserci anche il Ministero dell'Interno e teoricamente la stessa Palazzo Chigi, parti offese del reato di concussione per la telefonata di Berlusconi in questura a Milano la notte in cui Rubi fu fermata per un furto. A giudicare il Premier saranno 3 donne, come già nel processo Mills ricorda uno dei difensori di Berlusconi, Piero Longo, che dice che si aspettava questa decisione del giudice. Nel provvedimento di 30 pagine si elencano le fonti di prova che rendono evidente, a detta della GIP, i reati, dalle relazioni di servizio degli agenti della questura ai verbali di Rubi, a quelli dei testimoni, alle intercettazioni. Il giudice affronta anche i 2 nodi giuridici stabilendo che la competenza non è del Tribunale dei Ministri, come invece ritenuto dalla difesa del Premier, perché il reato di concussione sarebbe stato commesso nella qualità e non nell'esercizio delle funzioni di Premier, non essendo il Presidente del Consiglio direttamente a capo della Polizia. Così ugualmente viene affrontato e risolto il nodo del rito immediato per entrambi i reati, cioè la concussione e la prostituzione minorile, così come in genere è spesso avvenuto e la giurisprudenza stabilisce che spesso può avvenire. Infine, appunto, quando il 6 aprile comincerà anche questo processo, sarà preceduto da una battaglia a colpi di legittimo impedimento, è possibile prevedere, perché questo stesso processo andrà ad incrociarsi con la ripresa dei vecchi 3 processi, Mills, Mediaset e Mediatrade, che sono stati per così dire scongelati dalla decisione della Consulta proprio sul legittimo impedimento. Staremo a vedere. Grazie Raffaella Calandra da Palazzo di Giustizia. E adesso però veniamo alla giornata di oggi e alle reazioni politiche a questa notizia. Si faccia processare, dice l'opposizione, e di parere diverso naturalmente la maggioranza. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, come avete detto voi dal studio, la notizia del giudizio immediato arriva al Premier Silvio Berlusconi mentre si trova al centro di Mineo, vicino a Catania, candidato ad ospitare un centro d'accoglienza per la nuova ondata di clandestini. Arriva insieme al Ministro degli Interni Roberto Maroni, ma non partecipa alla conferenza stampa, fa rientro a Roma in una macchina separata. La maggioranza però è compatta accanto al Premier. Per Fabrizio Cicchitto, come voleva si dimostrare, è una giustizia ad orologeria, ma sentiamo il capogruppo PDL alla Camera. La decisione del GIP significa che il fumus persecutionis è sempre più evidente. La posizione di Berlusconi è stralciata rispetto a quella degli altri imputati, nei cui confronti c'era un'indagine da prima precedente a quella di Berlusconi, quindi l'acceleratore è premuto al massimo nei confronti di Berlusconi per un evidente uso politico della giustizia. Ma dall'opposizione si insiste, Berlusconi si deve dimettere e farsi processare. Il capogruppo PD alla Camera, Dario Franceschini. Berlusconi si proclama perseguitato e innocente. Allora vada a difendersi davanti ai giudici, come tutte le persone che non hanno nulla da nascondere, e risparmi al suo paese la figura di fronte al mondo di un Presidente del Consiglio processato per prostituzione minorile e concussione. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Dunque, le notizie da Palazzo di Giustizia di Milano si intrecciano con la giornata del Presidente del Consiglio Berlusconi, che è con Maroni in Sicilia, nottata senza sbarchi, la seconda fortunatamente a Lampedusa, dove però resta l'emergenza per più di 2000 immigrati che sono attualmente sull'isola. Allora cerchiamo di capire che cosa sta predisponendo il governo con Letizia Carrara, che sta seguendo le dichiarazioni del Ministro dell'Interno Maroni a Catania. Buongiorno. Buongiorno, è ancora in corso la conferenza stampa qui in prefettura a Catania del ministro dell'interno Maroni. Non c'è, lo abbiamo detto, il presidente Berlusconi. Insieme comunque erano stati ad effettuare il sopralluogo nella struttura individuata a 40 km da Catania. Intanto si precisano dei numeri, si tratta di 1780 alloggi in grado di contenere circa 7000 immigrati, ma la novità che ha dato oggi appunto Maroni è che hanno pensato di utilizzarla piuttosto come cittadella della solidarità. Si tratterebbe della prima cittadella della solidarità destinata non a clandestini ma ai rifugiati politici. Dunque entro le 48 ore, dice Maroni, che verrà partirà un censimento per confermare la presenza appunto dei rifugiati in tutta Italia. In questo modo le strutture che verranno di fatto liberate, occupate in questo momento dai rifugiati, verranno invece impiegate per i clandestini appunto sbarcati in queste ore. Non è necessario, ha detto ancora Maroni, in questo momento costruire altre strutture, lavoreremo su quelle che abbiamo. Intanto appunto l'ondata di sbarchi si è fermata, dice Maroni, probabilmente le cattive condizioni del tempo hanno contribuito a questo stop. Sono 5.337 gli immigrati presenti in questo momento, appunto sbarcati fino a questo momento. Questa notte però al largo di Pozzale è stato individuato un barcone con a bordo una sessantina di egiziani. Questo lo ha sempre detto il ministro Maroni, che nei prossimi giorni si confronterà con i rappresentanti europei. Ha confermato la lista delle richieste appunto alla Commissione europea. Intanto la richiesta in denaro di 100 milioni di euro, e poi si vedrà. Sulla notizia che riguarda appunto il presidente Berlusconi appunto del rinvio a giudizio non ha invece voluto commentare. Grazie Letizia Carrara. E come sentivamo dunque, lo stesso Maroni parla di una possibile ondata di sbarchi anche dall'Egitto. Cerchiamo di capire allora qual è la situazione a Lampedusa oggi, e andiamo sull'isola siciliana con l'inviato del Sole 24 Ore Mariano Maugeri. Buongiorno. Buongiorno. Ti trovi sull'isola da ieri sera, qual è la situazione e poi anche queste notizie su possibili nuove ondate di sbarchi, che cosa dicono gli immigrati? Una ondata sporadica o potrebbero essercene altri in arrivo, Mariano? Questa è una bella domanda alla quale nessuno sa rispondere. Tra l'altro le condizioni meteo avverse non è che sia in realtà così, qui c'è un tempo ottimo, bonaccia come si dice in gergo marinaro, anche se nei prossimi giorni si prevede scirocco, e probabilmente proprio in previsione di questo scirocco che gli sbarchi si sono fermati. Qui la situazione è tranquilla, ma c'è una, come dire, come se ci fosse una tregua a vigile. E i tunisini sciamano per il paese, addirittura stamattina un gruppo ha inscenato una manifestazione per ringraziare il popolo di Lampedusa con uno striscione un po', insomma, raffazzonato, in cui dicevano grazie agli isolani. E non dovrebbero esserci problemi anche nelle prossime ore. Oggi ne partiranno 200 da Lampedusa verso i centri di identificazione ed espulsione, mentre sarà raddoppiato il pattugliamento da parte delle forze dell'ordine. In questo momento ci sono 160 tra guardie di finanza, poliziotti e carabinieri, dovrebbero arrivarne dalla Sicilia almeno altrettanti. E questa è la situazione al momento. Grazie dunque a Mariano Maugeri, così la situazione a Lampedusa. Ma c'è un punto che rimane aperto ed è quello della collaborazione tra l'Italia e l'Unione Europea. Tra l'altro era anche il tema del nostro sondaggio di oggi. Vi chiedevamo: gli sbarchi a Lampedusa, emergenza italiana o europea? Queste le vostre risposte: un'emergenza italiana per il 15%, un'emergenza anche europea per la stragrande maggioranza degli ascoltatori di Radio 24 con l'85%. E proprio su questa questione resta aperta, perché è stata l'Europa a dire non abbiamo ancora ricevuto una richiesta da parte dell'Italia, invece Maroni ha detto il contrario. Gigi Donnelly questa mattina qua con noi in studio ha sentito l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere, che operativamente si occupa di questi temi. Che cosa è emerso, Gigi? Ma sì, proprio ancora circa 10 minuti fa, di fatto, Varsavia conferma quanto continua a dire. Non ha ricevuto nessuna richiesta formale. Ora, siccome siamo in un ambito europeo e nessuno cerca la polemica più del necessario, allora dicono starà arrivando, arriva nelle prossime ore, ce l'hanno detto anche questa mattina. Di fatto Frontex è la nuova struttura, nuova, attiva ormai da 5 anni, che ha la responsabilità appunto del controllo delle frontiere esterne, però attenzione, la responsabilità risiede nei paesi membri, quindi nei diversi paesi. I confini terrestri solo dell'Unione Europea sono 8.826 chilometri, quindi è uno spazio enorme. In realtà Frontex cerca di sopperire coordinando degli interventi. Morale della favola, cosa hanno detto? Sono pronti ad intervenire, hanno a disposizione 2 aerei che chiedono peraltro agli Stati membri, in particolare ora da Spagna e Belgio, e sono pronti a intervenire con un investimento di circa 12 milioni di euro e con 20 funzionari che potrebbero dare una mano appunto agli italiani nelle operazioni di controllo. Tutto questo aspettando che questa famosa richiesta arrivi. Grazie, grazie allora anche a Gigi Donnelly su questo punto che riguarda la collaborazione tra l'Italia e l'Europa. Chiudiamo qua la pagina di Lampedusa e ne apriamo un'altra decisamente più allegra e ridanciana, perché stasera debutta il Festival di Sanremo. Speriamo che ci siano risate e sorrisi. Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno, beh, qui tutto sembra una questione capitale, anche la notizia di oggi, ovviamente facendo il rapporto con le grandi notizie del giorno, è nulla, però insomma oggi qua si parla del televoto, perché già da qualche giorno, l'abbiamo detto spesso a Radio 24, era stato annunciato il nuovo regolamento della G-Com per combattere l'uso, peraltro mai verificato, dei call center per comprare i voti. Cosa è successo? L'antitrust ha sanzionato la RAI per 50.000 euro per pratica commerciale scorretta. Non sarebbe stata infatti l'anno scorso abbastanza trasparente nella comunicazione ai consumatori. La RAI ricorrerà al TAR definendo il provvedimento infondato, illogico e contraddittorio. Ma questa sera cosa succederà? Beh, Gianni Morandi dovrà avvertire i consumatori del rischio che qualcuno compri i voti. Questa è la spiegazione, insomma, i voti si possono comprare o no? In realtà, qual è il timore? Che la tecnologia dei farabutti, così sono stati chiamati, potrebbe essere più avanti della velocità di controllo. I controlli infatti verranno fatti dagli operatori telefonici, ma solo a posteriori. E dall'Arizona è tutto. Marta, però una domanda te la voglio fare: che cosa sentiremo stasera, se sei ancora lì con noi? Cosa si sentirà? Ci sono, sentiremo tutti i big, e come potete ricordare anche dall'anno scorso ci saranno le prime esclusioni, quindi ci saranno 2 cantanti che usciranno dalla gara, però poi potranno essere ripescati. Quindi suspense da subito. Sì, 2 potrebbero subito tornare a casa o perlomeno stare in attesa dell'esibizione dei 105, della serata speciale dei 150 anni e del ripescaggio. E per quanto riguarda invece il vero mistero è quello che faranno Luca e Paolo. Nessun controllo preventivo sui testi. Ogni anno a Sanremo c'è qualcuno incaricato di fare un po' il mattatore, quest'anno naturalmente le 2 Iene. Grazie Marta Cagnola. 13 e 18 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato della decisione del Tribunale di Milano di processare il Presidente del Consiglio Berlusconi per i 2 reati, concussione e prostituzione minorile. Le reazioni sul fronte politico per il PDL, tutto secondo copione, un processo surreale. L'opposizione invece dice Berlusconi vada dai giudici. Berlusconi che non ha partecipato alla conferenza stampa con Maroni in Sicilia, i 2 sull'isola per risolvere la questione immigrati, nottata senza sbarchi. A Lampedusa resta però lo scontro con l'Unione Europea sull'accoglienza. Adesso tutte le altre notizie. A cominciare dall'Iran, dove è salito a 2 il numero dei morti nelle manifestazioni di ieri nella capitale, e dove migliaia di oppositori sono scesi in piazza dopo alcuni mesi di assenza. Si parla di un contagio dalla Tunisia all'Egitto all'Iran. Farihan Sabahi, buongiorno. Quali notizie si hanno su quello che sta succedendo in Iran? Sì, buongiorno a tutti. Ieri il Movimento Verde è tornato in piazza a Teheran, in altre città come Isfahan, Shiraz e Mashhad, Il problema è che, come in Nord Africa, anche in Iran queste proteste sono prive di un vero leader carismatico. La rete rappresenta un punto di incontro e per questo ieri è stata bloccata dalle autorità. Mousavi e Terroubi sono entrambi agli arresti domiciliari. Oggi i deputati conservatori gli hanno chiesto addirittura la condanna a morte per impiccagione, perché sediziosi e strumenti nelle mani dell'America e di Israele, così ha dichiarato il presidente del Parlamento Ali Larijani. La buona notizia è che dopo 14 mesi di silenzio il Movimento Verde esiste ancora, è tornato a farsi sentire muovendosi con una tattica di guerriglia urbana non violenta. I manifestanti si erano diretti a piedi verso il punto d'incontro, poi si sono seduti a terra, hanno dimostrato, ma la cattiva notizia è che le forze di sicurezza hanno represso duramente le proteste con tecniche ormai affinate, dividono i manifestanti in piccoli gruppi, prendono di mira alcune persone, le caricano sui minibus per portarle in questura dove sono poi schedati. Questa schedatura ha poi conseguenze sul percorso scolastico, che viene penalizzato, e non permettono di trovare lavoro nel settore pubblico. Tutto questo ovviamente contribuisce a creare un clima di intimidazione. Ecco, cosa potrà succedere oggi? Teheran non è il Cairo, dove l'esercito non ha sparato contro la folla, anche perché le forze armate egiziane ricevono equipaggiamento e denaro da Washington. Invece l'Iran è isolato dal punto di vista internazionale, non c'è modo di fare pressione, è diventato di fatto un paese autarchico. A reprimere l'opposizione sono Pasdaran e Basiji, quindi quel ceto basso che, in virtù di salari governativi, di tanti sussidi diretti in denaro, rappresentano di fatto lo zoccolo duro del sostegno al presidente Ahmadinejad. Il parallelo che viene spontaneo tra Teheran e le piazze arabe è che tutti chiedono di mettere fine a queste umiliazioni e reclamano dignità. Per il resto l'Iran è un caso a sé, probabilmente anche negli esiti di queste ennesime proteste di piazza. Grazie dunque a Farihan Sabahin. Invece sul fronte egiziano c'è una notizia che riguarda il patrimonio dell'ex presidente Hosni Mubarak, perché l'Unione Europea fa sapere di aver ricevuto ieri dal ministro degli esteri egiziano la richiesta del congelamento dei beni di alti funzionari del vecchio regime, ma non per quanto riguarda i beni e le proprietà dell'ex presidente, appunto, Mubarak. E adesso invece lasciamo l'estero, veniamo in Italia e parliamo del punto sul piano di investimenti Fiat per l'Italia che ha fatto oggi Sergio Marchionne in audizione alla Camera. Sentiamo. Il cuore in Italia, la testa in più posti, perché crescere e rafforzarsi nel mondo non significa rinnegare le proprie radici, semmai vuol dire proteggerle. In una lunga audizione alla Camera, Marchionne respinge le accuse di voler abbandonare l'Italia e spiega che se si realizzeranno le condizioni rispetto al progetto Fabbrica Italia, allora il nostro paese sarà in grado di mantenere la sede legale. La verità è che la Fiat è l'unica grande azienda che ha deciso di investire in questo paese in modo strutturale. Il piano che abbiamo presentato è la nostra scommessa, è il nostro modo per dire che l'Italia non è un paese da abbandonare, ma è una sfida che si può vincere. Marchionne difende più volte l'alleanza con Chrysler. Non è solo vero che la Fiat abbia salvato Chrysler, dice, è vero anche il contrario. Altro capitolo, le relazioni sindacali. Non abbiamo mai intaccato i diritti dei lavoratori, contro di noi critiche assurde e demenziali. Poi annuncia: produrremo 34 nuovi modelli nel giro di 5 anni, 1 milione di autovetture entro il 2014. E se riusciremo a portare l'utilizzo degli impianti dall'attuale 40 all'80%, aumenteremo i salari portandoli al livello della Germania. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre sul fronte economico, l'Istat segnala che il prodotto interno lordo italiano nel quarto trimestre del 2010, l'anno che si è appena concluso, ha segnato un rallentamento rispetto ai 3 mesi precedenti. Dunque il PIL chiude il 2010 con un più 1,1%. Sentiamo. A fine 2010 la crescita italiana ha rallentato. Per l'intero anno l'Istat stima un aumento del PIL dell'1,1%, ma nel quarto trimestre il prodotto interno lordo è salito solo dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. È una crescita comunque più lenta rispetto ai paesi che sono in ripresa, come sottolinea il direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi. Il punto fondamentale è che questa performance è molto molto inferiore a quella che osserviamo negli altri paesi. Le prospettive sono di miglioramento e sono di tenuta della dinamica internazionale. Il punto fondamentale è come migliorare la nostra competitività. che è deficitaria, come dimostra il saldo negativo della bilancia commerciale registrato l'anno scorso. Nel 2010, infatti, la bilancia commerciale italiana ha riportato un deficit di oltre 27 miliardi, il più ampio mai registrato. Era di 6 miliardi nel 2009. Sono cresciute le esportazioni, più 16%, ma le importazioni sono salite molto di più, del 22,6%. Chiara Di Cristofaro, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso con la cronaca, una storia di mafia che ci porta indietro di 19 anni. Volevano ammazzare un funzionario comunale che aveva bloccato degli appalti che coinvolgevano le cosche mafiose, però non riuscirono in questo loro intento, solo per un caso. Adesso due persone sono state arrestate per quel tentato omicidio. Aveva ripulito il sistema di assegnazione degli appalti affidati dal comune di Gela, impedendo alla cosca mafiosa locale di controllarne l'assegnazione. Per questo motivo doveva essere eliminato. Dopo 19 anni, la squadra mobile di Caltanissetta ha fatto luce sul tentato omicidio di Nunzio Renato Mauro, dirigente ai lavori pubblici del comune di Gela. Era il 1992 e a sparargli in faccia, senza riuscire a ucciderlo perché la pistola si inceppò, sarebbero stati Giovanni e Giuseppe Di Giacomo, quest'ultimo assassinato dopo aver iniziato a collaborare con la giustizia. Ma il mandante dell'omicidio, secondo l'accusa, sarebbe stato lo zio Salvatore Di Giacomo, che fino all'arrivo di Nunzio Mauro al comune aveva gestito l'assegnazione degli appalti, scegliendo le ditte che dovevano vincere, imponendo loro le tangenti che sarebbero finite nelle casse degli uomini della Stidda. Stamane zio e nipote sono stati arrestati. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era una curiosità per gli amanti dell'arte, perché il giallo brillante dei dipinti di Van Gogh, i famosi girasoli, ma anche di altri impressionisti come Manet e Renoir, rischia di spegnersi. Lo hanno scoperto alcuni ricercatori in uno studio del CNR di Perugia, appena pubblicato dalla rivista Analytical Chemistry, come spiega Costanza Migliani, ricercatrice al CNR di Perugia, al microfono di Adriana Fracchia. Il fenomeno dell'imbrunimento del giallo utilizzato da Van Gogh, ma non solo, ma anche da altri pittori a lui coevi, pittori impressionisti, è noto da tempo. La ricerca ha svelato qual è il meccanismo di questa alterazione. E il meccanismo riguarda la riduzione del cromo. Il pigmento giallo è un cromato di piombo che si riduce a ossido di cromo, che ha una colorazione verde, così dando questa tonalità marrone. Quindi l'alterazione era già nota, abbiamo capito perché avviene e questo aprirà poi la strada per evitare, per rallentare il più possibile nel tempo l'aumentare. Sarà possibile riportare al suo giallo naturale o no? No, questa cosa è direi impraticabile sopra un dipinto di Van Gogh. L'idea realistica è quella di rallentarlo e minimizzarlo al massimo, sapendo quali sono le condizioni al contorno che accelerano il processo. Quello che si vorrà stabilire nella prossima fase della ricerca è capire in quali condizioni è meglio mantenere i quadri in termini di temperatura, umidità e irradiazione. È tutto, vi lasciamo a Italia in controluce. Alessio Maurizio in studio e Filippo Aureggi in regia vi augurano buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.